Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fuck. Do. Here goes. Fuck. To do. www.askthebenny.com. Iniziamo quello che siamo venuti a fare nella stanza, come dice Fela Kuti, come sentiamo dire tutte le volte, perché questa è la fighissima sigla di Battito Madre, e come diciamo noi invece tutte le volte, com'è Colin? Greetings, saluti, ciao ciao. Ciao ciao amici, anzi di nuovo Battito non siamo Madre. Amici. Amici e amiche, anzi ascoltatori e ascoltatrici. Come stai Colin? Bene Piero, è una settimana che ascolto musica caraibica, sto una favola. Sì, per cui si può solo che stare up, qualsiasi riferimento non è deve essere per niente casuale. Deve essere terapeutica questa cosa qua, va fatta, va consigliata. Up, up, upbeat, questa sarà una puntata molto molto molto up. Ma appunto ci siamo detti, mentre ci arriva conferma che va tutto bene, la diretta sta andando bene, quindi prima le cose pratiche, le cose tecniche. A mio star buon bene, Cuoli, facciamo esatto. I soliti salutoni. Siamo tornati a fare la diretta di Battito Madre dopo 5 settimane questo giro. È stata lunga, vero? E non 4, è stata lunga, infatti vabbè, come al solito, ormai io dico sempre questo, io quando comincio a mancare 20 minuti, mezz'ora alla diretta comincio a fare avanti e indietro. Per Exalge, quindi grazie alle nostre case che sono virtualmente a starbell.com e Radio Exalge, invece fisicamente Exalge in Milano. Passate a trovarci perché siamo sia in diretta radio e dal vivo, ci sono le birrette, c'è della gente, c'è la black music che insomma anche quando non facciamo la radio ci riempie le giornate. Proseguiamo Coli, la nostra tradizione inaugurata con il secondo episodio di fare un po' di black music talk, così un po' più leggerina prima di, sì. di entrare. Sì, di perché entrare dicevamo che l'ultima puntata è stata piuttosto didattica. Sì, l'ultima puntata è stata piuttosto didattica e anzi anche tecnicamente un pochino pasticciata, perché eravamo orfani della regia e quindi abbiamo fatto un errorino diciamo intorno alla mezz'ora di diretta, di cui ci scusiamo. Ma speriamo diciamo, che la puntata non diciamo, a noi piace la radio verità, radio trasparente, okay. Siamo di nuovo orfani della regia, ma a questo giro sembra che abbiamo preso tutte le precauzioni del caso. Se c'è qualcosa che non va nella diretta e ci state ascoltando, il modo per parlarci c'è, guarda come ti ho fatto il gancio così, ed è il canale Telegram di A Star Bene che noi abbiamo qui aperto qui davanti. Scriveteci perché vi leggiamo. Dunque, la nostra tradizione era quella di fare un po' di black music talk, così un po' più leggera prima di entrare nel vivo. Per cui intanto mi piacerebbe raccontare di questa cosa che ci ha fatto molto ridere, è successo ieri, perché dall'ultima puntata di Battito Madre, in cui abbiamo parlato di R&B e di soul, abbiamo nominato senza in realtà sentire nessun pezzo, abbiamo nominato Sam Cooke, che io poi a cui poi mi sono appassionato più di quanto già fossi, e ieri ci ha fatto ridere un testo di un pezzo di Sam Cooke, un pezzo in cui insomma dice che è nuovo in città, non trova una donna e si lamenta del fatto che un suo amico diceva di avere una sorella molto bella e poi dice invece che somigliava a un gatto di nome Frankenstein, per cui questa cosa mi ha fatto molto ridere. E comunque possiamo già partire da un'analisi bella, cioè nel senso sono successe delle cose prima, no, chi se ne frega delle cose che sono successe. Com'è arrivato un testo che parla di questa cosa qua rispetto a quelli da cui siamo partiti, che erano di sentimenti, musica, di god music, di work song e di qualsiasi altra cosa? Siamo arrivati finalmente a qualcosa che parla dell'ordinario oppure del... Sì. Sì, sì, è vero, perché il pezzo è di un album del 64, per cui già era successo quello che avevamo detto la volta scorsa, certo, musica, certo. Industria musicale, però è anche, e quindi sì, temi relatable, perché dovevano essere venuti. Allo stesso tempo però mi viene in mente l'uomo di cui avevamo parlato nella puntata sul blues, che diceva se c'è una donna che non ti dà attenzioni e tu soffri invece di dirglielo, prendi in mano una chitarra e cantaglielo. Per cui musica. C'è dell'evoluzione, ma c'è anche la traccia delle radici. Che bello iniziare così una puntata di Battito Madre. Coli, ben ritrovato, è sempre bello trovarsi ben qui in diretta. Ben ritrovato anche a te. in questa doppia diretta su astralberry.com e su Radio Exalge. Insomma, puntata, ma insomma, si è già capito, possiamo dirlo, si chiama Afro Caribbean Upbeat, vuol dire musica in levare afro-caraibica. Cominciamo però con un pezzo che... Intanto, scusa, ti faccio una domanda. Dimmi, cosa vuol dire? Non abbiamo ancora sentito niente in levare fino ad oggi. Allora, diciamo che... Beh, no, scusa, nella pilota abbiamo ascoltato... Abbiamo sì, ascoltato beh, nella però pilota la Exodus. Ok, giusto. Abbiamo ascoltato nella puntata sul blues Burning Spear, Jano Den. Giusto. Per cui sì, abbiamo sì. ascoltato cose in levare su 2 su 3 episodi okay. finora. Però diciamo che... Il levare è una categoria abbastanza vaga, nel senso che può essere molto marcato, come nel caso delle musiche che andremo ad ascoltare questa sera, oppure semplicemente accennato, cioè con gli accenti delle, certo. degli strumenti che fanno le percussioni fondamentali di un certo tipo di musica. E poi mi sento di aggiungere, non abbiamo neanche non abbiamo ancora parlato di dove effettivamente questa musica, anzi di dove l'upbeat è nato, che sono le isole caraibiche. E sono le isole caraibiche ed è proprio per questo che negli ultimi 3 episodi sostanzialmente abbiamo fatto più volte su e giù per il Mississippi, che va dal Canada al Golfo del Messico. Questa sera sfociamo nel Golfo del Messico e andiamo nei Caraibi. Nei Caraibi, che è Giamaica, è Haiti, è Cayman Islands, è Trinidad e Tobago, queste zone paradisiache. Certo, quei colonie soprattutto. E colonie, esatto, paradisiache in senso appunto di natura... Di natura, mare meraviglioso, natura e anche spiritualmente ricchissime e soothing, cioè molto accoglienti, se vuoi, hanno questa spiritualità che ti fa sentire a casa. Sì, sarà per questo che poi la musica che ne è nata sarà anche così? Quanto povere, quanto che presentano molte situazioni di miseria. Afro-Caribbean, insomma, è un popolo, è un'indicazione etnica, ecco, cioè le persone che risiedono nei Caraibi e che hanno però origini proprio genetiche che provengono dall'Africa subsahariana. Per cui goli, arriviamo geograficamente e anche cronologicamente al dove eravamo partiti nell'episodio certo. pilota, l'Africa certo. occidentale. La madre, madre la Africa. Battito madre. Non lo diciamo per niente a caso. Dunque, io direi... Non diciamo altro, andiamo di pezzo. Andiamo di pezzo perché è proprio il pezzo di apertura. Insomma, mi piace anche perché tra l'altro l'ultima volta ci eravamo lasciati con Motown. Nominando quest'uomo qui, che è Stevie Wonder, per cui mi piace molto non chiudere un cerchio, ma riagganciarci, perché è passato del tempo, ma noi riprendiamo da dove ci eravamo fermati. Questo è Stevie Wonder, un pezzo reggae al modo di Stevie Wonder, si chiama Master Blaster, lo conosciamo, sentiamo come fa. Thank you. Master Blaster, l'uomo che chiamiamo Stevie Wonder, tra parentesi Jammin', perché è chiaramente un pezzo diciamo ispirato a, ovviamente, Bob Marley. Questo è un disco che si chiamava Hotter Than July ed era del 1980. Bob Marley anche nominato, non solo citato un titolo di una sua canzone nel titolo da Stevie Wonder, ma anche nel testo dice: From the park I hear rhythms, Marley's hot on the box. Che era il jukebox, vuol dire, insomma, a New York nei jukebox negli anni 80. Nel 1980 ovviamente si ascoltava tanto Bob Marley. Oh, yeah. Insomma, avendo fatto questo meraviglioso gancio Stevie Wonder, Bob Marley, che dire, è chiaro dove andremo a parare, perché andremo a parare sul reggae, anche se è un percorso lungo, non immediatamente intuitivo, perché abbiamo detto prima, Coli, che andiamo sostanzialmente a iniziare dove ci eravamo fermati sostanzialmente, o meglio, dove avevamo iniziato, sì, a livello cronologico, intendi? Sia a livello cronologico, sì, sia proprio a livello di luoghi dove avevamo iniziato la pilota, cioè sempre l'Africa subsahariana occidentale, cambiando destinazione, cioè i Caraibi. Invece dell'America settentrionale succede qualcosa di diverso, e pare che la cosa decisiva in questo caso è che ci sono sempre le più o meno gli stessi elementi, no? Cioè tipo danze tradizionali, musica tradizionale, folkloristica, importato ovviamente dall'Africa. E però cosa succede? Appunto si mischia a un'altra cosa, e appunto sono decisive le influenze della cultura popolare musicale di Francia e Spagna, perché appunto è successo qualcosa di diverso ed è nato, lo diciamo subito, un genere musicale, scritto, insomma, qua dice in Trinidad e Tobago, ma sostanzialmente un po' in tutti i Caraibi, a metà del Settecento, perché proprio in piena epoca coloniale, un genere, certo, musicale che si chiamava Calypso. Un misto delle praise songs, delle canzoni di preghiera dei nostri amici che abbiamo nominato, certo, nella pilota e anche nell'episodio 2, sì, che erano i griot, cioè i custodi della cultura orale, i direttori canto. E il canto era il Kaito? Sì, era Kaizo e Kambule. Kaizo Kambule. Che sono Kambule, che ho letto, è traduzione, cioè, o meglio, è onomatopeicamente tradotto dal francese can brûlé, che erano le canne, che era come venivano indicate le canne che usavano le popolazioni indigene all'interno di questi balli rituali, che erano una sorta, prima lei associate alla capoeira, era una sorta, simulavano un combattimento. Sì, simulavano combattimenti con questi stecconi di canne di bambù bruciate, appunto brûlé. E vabbè, niente, molto mentre bello. Kaizo, mi hai detto che erano specificamente i canti intonati dai griot che venivano seguiti da tutta la comunità. Questi qua, cioè, diciamo che questi, bello che questi due elementi, queste cose, effettivamente battito madre proprio più alla radice, sono sempre presenti all'interno delle nostre puntate, che vuol dire che stiamo facendo, come al solito, un buon lavoro. Mi fa esatto, molto perché piacere. La cosa divertente è studiare, preparare la puntata e scoprire che dei collegamenti che noi avevamo, diciamo, immaginato, intuito, erano corretti. La cosa bella, c'è scritto, dice: il ruolo del griot, cioè di quello che intonava i canti, prima erano canti spirituali, canti di preghiera nell'Africa subsahariana, adesso diventavano canzoni di lavoro. Il ruolo del griot diventò noto come prima Chantuel, e qui vediamo l'influenza francese. E poi Chantuel, direi Chantuel, sì, cantastore, okay. Sì, qualcosa del genere. Poi non parlo francese, e nemmeno io. ditecelo su Telegram come tradurreste, mamma mia che brutta cosa, come tradurreste la parola Chantuel. Poi invece Calypsonian. Per cui, ed è qui, 1700, metà più o meno 1700, nasce il genere musicale che si chiama Calypso. Sì. Una cosa che mi piace citare, perché è interessante per delle cose che succederanno dopo: gli schiavi che nelle piantagioni di canna da zucchero, in questo caso nei Caraibi c'erano questo tipo di piantagioni, venivano spesso invitati venivano spesso invitati alle feste che tenevano gli slave masters, i padroni, e costretti, diciamo, all'intrattenimento. Ed erano feste molto carnevalesche, in cui gli schiavi si travestivano, ed era l'unica occasione in cui loro stessi potevano diventare re, regine, principi e principesse. Sì, molto bella questa cosa qua, che poi diventa effettivamente, come hai detto tu, l'appellativo che si danno questi gli artisti che conosciamo e che sono diventati ormai parte della storia della musica, tipo Prince, Duke. Esatto, proprio così. È proprio per questo che è interessante e divertente, perché poi negli anni 50-60, diciamo 50-60, molti artisti giamaicani che facevano ska, rocksteady, insomma generi di musica di cui poi andremo a parlare, si soprannominarono Prince Buster, Duke Reed, il produttore King Tubbies, che il produttore, qualcuno che ci ascolta avrà sicuramente presente la foto di King Tubby davanti al banco a mixare, e lui si faceva fotografare con una corona alla testa. Certo, poi bisogna anche dire che tutta questa cultura che era effettivamente, cioè era una cultura a parte schiavista, nel senso era promossa dagli schiavisti e quindi effettivamente da quello che organizzavano loro, coinvolgeva le popolazioni schiave. Da ciò cosa ne è nato? Una tradizione che dura ancora oggi, che è il carnevale di Haiti. Certo, bellissimo, grazie che hai detto questo, perché un'altra cosa interessantissima, vero? Delle usanze brutte, violente, tristi, danno luogo intanto alle evoluzioni musicali di cui noi possiamo parlare adesso, che ci hanno portato tanta della musica che amiamo, ma anche delle tradizioni che di cui adesso, diciamo, le popolazioni coloniali si sono riappropriate. Adesso sì. Sono diventate manifestazioni di orgoglio identitario, come ribellione al sopruso coloniale, insomma hanno rigirato, certo, un po', ed è un po', sì, tu dici, grazie, giustamente un po', perché effettivamente già all'epoca le cose che cantavano, che erano cantate in lingue che non conoscevano, venivano usate anche per prendere per il culo chi erano i loro capi, chi erano vabbè, insomma, sì, avete, c'è capito, una natura satirica, quindi, esatto, c'è una natura satirica, quindi godevano anche da questa festa che organizzavano i loro proprietari, tra virgolette, e niente, vabbè, l'ingegno, la creatività e tutto quanto. Quando hai qualcosa che ha bisogno di essere espresso, trova qualsiasi via per poter poi essere espresso. Riuscire a fare satira in situazioni di schiavitù è davvero straordinario. Come straordinario è quello che poi ne è venuto. Ascoltiamo un pezzo Calypso, che è un pezzo delle Andrews Sisters, delle sorelle Andrews, che nel 1945 vendette ben 1 milione di copie. È un pezzo però rifatto, sorelle Sister, che poi sono state tra quelle che hanno aiutato alla divulgazione e alla conoscenza del genere calypso. Perché, giusto? Sì, sì, sì, ne vogliamo parlare più tardi? Insomma, diciamo qualche cosa adesso, perché l'originale effettivamente era di un signore che si chiamava Lord Invader. Il pezzo si chiama Rum and Coca-Cola, però la cover delle Andrews Sisters, ripeto, nel 45 vendette 1 milione di copie, che sono numeri che insomma, che ancora adesso sono molto significativi. Io direi, Cori, che adesso andiamo a sentire. Questa è la Calypso delle Andrews Sisters, Rum and Coca-Cola. You ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother la. Oh, you vex me, you vex me. From Chick-a-Chick-Carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old Trinidad I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she heard her bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, G.I. romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. Rum and Coca-Cola. Rum and Coca-Cola, le sorelle Andrews nel 1944 hanno fatto questo disco che nel 45 vendette 1 milione di copie. Ora, essendo la calypso un po', possiamo dire, il blues dei Caraibi, perché leggiamo è stato registrato per la prima volta nel 14. Noi del blues avevamo detto la stessa cosa, però sì, più forse o meno. Nel 15. Sì, cioè, era sempre la Victor and Decca che, certo, sì erano. Però comunque, nonostante, allora, questo è un disco ovviamente di calypso molto evoluta, perché è registrato 30 anni dopo la prima registrazione di calypso, che a sua volta è un genere coloniale, per cui coloniale, però... E c'è anche una parte folk che ci siamo dimenticati di dire, effettivamente. Sì, più tradizionale della Giamaica, giusto? Sì, esatto, che era una cosa molto più specifica della Giamaica, esatto. Ma e quindi calypso e mento hanno molto in comune, nonostante appunto abbiamo sentito un disco che ha già 30 anni rispetto alla prima registrazione di Calypso. Che cosa sentiamo rispetto alle cose che abbiamo suonato negli primi 3 episodi di Battito Madre? Il levare. Cazzo, l'up beat. Adesso erano chitarre o comunque strumenti a corda che davano l'accento invece sul battere, invece che sul battere, sullo levare. E in generale anche forse uno spostamento di tanta parte di questa musica sulle frequenze più alte. Anche le percussioni sono più marimbose, diciamo. La sezione fiati è molto... Sì. A livello... Ha dei timbri molto alti. Sì, analizzandola da un livello proprio psicoacustico, è musica felice. Scusa, ho avuto un brivido. È musica felice questa, non ti sembra? Assolutamente sì, assolutamente sì. Rispetto a tante delle cose che abbiamo sentito, e non che le altre siano tristi, però questa qua... Beh, il blues è, insomma, è prima, esatto, che un genere musicale, è un sentimento, ed è il sentimento della tristezza. Di tristezza. Per cui sì lo possiamo dire, lo possiamo dire. Hai giustamente nominato il mento, che mentre la calypso era una cosa, diciamo, comune a tanti paesi, a tante isole, a tanti luoghi dei Caraibi, Trinidad e Tobago, abbiamo detto... sì, anche Giamaica, ma Isole Cayman e questi luoghi qui, la mento invece era un fenomeno specificamente giamaicano. E che è stata, che come dicevamo prima, è una parte fondamentale di quella che è poi la della nascita storia che dobbiamo raccontare. Della storia, ma della musica calypso. No, o meglio, come scusa, no? Qui diciamo è un blend di calypso caraibica e Jamaican folk music, era qualcosa di ancora precedente di cui evidentemente abbiamo già poche tracce, ma era possiamo dire con la quasi assoluta certezza che erano percussioni tendenzialmente con timbro alto, perché sì, poi quelle con timbro basso sono arrivate, c'era dopo, il banjo, con altre influenze. Cos'è che faceva a corde? L'upbeat era dato dal banjo, era una cosa molto importante, cosa che poi si è smesso di fare nel tempo. Il banjo è stato sostituito da chitarre elettriche, fiati, e quindi quell'accordo lì sul levare ha dato spazio a strumenti più completi, più non tradizionali, più certo, accademici, forse. Sì, musica meno essenziale, meno folk, ma più già costruita, dove le cose avevano ognuna il proprio posto. Possiamo avere la quasi assoluta certezza di questo, anche perché, ripetiamo, insomma, mento e calypso avevano molto in comune, nonostante la mento fosse una cosa tipicamente giamaicana. Perché va nominata la mento? Perché poi un po' per, posso dire, deformazione professionale, quindi andremo a finire ovviamente in Giamaica, perché da una certa in poi la storia della musica caraibica è la storia della musica giamaicana, e questo grazie a non uno ma tanti profeti della musica afro-caraibica, insomma sarà il reggae, ma ci arriveremo. Era fondamentale nominare lamento perché lamento e la calypso, per questo ritmo in levare, che è la grande differenza con tutto il resto che abbiamo ascoltato finora in questa metà stagione di Battito Male, perché effettivamente noi faremo 6 episodi, perché abbiamo ufficialmente scavallato metà stagione. Complimenti. Bravo, siamo ancora bravo, qua. Siamo ancora qua. E ora, negli anni 80, giusto per fare un salto così ci divertiamo, la calypso è stata soppiantata nei Caraibi dal soca, che io conoscevo un pochino, ma non sapevo che soca fosse semplicemente una contrazione di soul calypso. Ed è fighissimo, perché poi la musica soca è diventata, come hai detto tu, famosa negli anni 80 ed ha preso subito un'influenza disco, un'influenza più ballereccia, no? Più commerciale anche poi come impostazione, però effettivamente nasce semplicemente dalla fusione di calypso e soul. Pazzesco. E allora andiamo a ascoltare un pezzo soca, così per divertirci, per muoverci un po', perché non ci piace essere didattici. Ha Battito Madre, lei è Singing Diane, con due N nella copertina del disco, anche se Spotify l'ha accreditata con una N sola. A me piace, è vero, più, anch'io ho notato. A me piace di più con due, perché è più folk, più francese, se vuoi. Il pezzo si chiama You Got to Give Away. 1978. Thank you. in Diane, You Got to Give Away è il pezzo che abbiamo scelto di portare come esempio dell'evoluzione della Calypso negli anni 80 in Soul Calypso, cioè soca contratta. Dunque, la Calypso si evolverà in soca. In cosa si evolverà? Lamento. Ora, in Giamaica possiamo fare questo tipo di discorso. In un posto del mondo in cui l'elemento ritmico principale è quello del levare, negli anni 50, insomma, geograficamente i Caraibi sono davvero molto vicini agli Stati Uniti, alla parte sud degli Stati Uniti, Miami ce l'hanno in un attimo, per cui le stazioni radio, che erano pompate, erano potentissime, erano pompate, arrivavano a Kingston, arrivavano in tutte le città delle isole caraibiche, per cui insomma, l'influenza di quello che stava succedendo negli Stati Uniti negli anni 50, per cui cos'era? Cos'è che succedeva? L'R&B. Se, essenzialmente, sostanzialmente sì, l'R&B. L'R&B. Motown. Bravo. Dunque, in questo luogo del mondo, questa influenza che cosa ha comportato? Ha comportato la nascita di un genere musicale che chiamiamo ska. E che appunto è figlio di tante cose. Sicuramente del lamento, sicuramente della calypso, insomma di generi di musica popolare caraibica, però tantissimo, tantissimo è anche figlia della musica statunitense, dell'R&B. Questi due, Fats Domino e Louis Jordan, li abbiamo nominati nella scorsa puntata. La differenza di influenza sono progressioni di accordi, sono insomma, è proprio un modo di cantare e di interpretare la musica. Accordi blues, linee di basso. Sì. Basso, cioè, presente, proprio... basso che poi è stato portato in avanti, cioè proprio il... Sì, anche proprio, sì, bravo, come volume. Come volume, cioè, faccia. Sì. Accordi blues, linee di basso, uniti al ritmo in levare, molto sostenuto anche, abbiamo sentito nella Calypso, fanno sì che nasca la musica ska con delle battute ancora più accorciate, perché è ancora più veloce, sentiremo. Poi... E questa è, si può dire, un po' la nascita dello ska, sì. Ma ancora di più. Comunque è facile, cioè sembra che prendi un po' di quegli ingredienti, tipo la cucina. Bravo, un po' di quello, anch'io. Un po' di quello, un po' nella bolla, così, così. Anche... C'è la radio di lì, quello di là, quello lì, sì, si, sì, fa, sì, così, sì, sì. È una cucina. È una cucina, hai fatto. Anche nella musica niente viene dal niente, anche nella musica niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma. È già tutto lì, semplicemente le cose vengono mischiate dalle persone che si muovono, cazzo, dalle persone che si spostano, e per cui sì, bravo, che poi bravo le persone che si spostano, perché poi si può riprendere il fatto che, come che però era per il discorso della musica calypso, che è diventata poi, ha avuto il boom negli anni 60-70, quando, sì, gli studenti delle isole si sono mossi, ah, nel, sì, Nord, sì, America, sì, e hanno fatto effettivamente, hanno portato i loro dischi con loro, e tipo per farvi capire, sì, siamo, perché ad siamo oggi... finiti sulla pagina di un'enciclopedia canadese, perché enciclopedia ci parlava canadese. Della calypso canadese, ed effettivamente gli studenti che a 20-25 anni lasciavano i Caraibi per andare a studiare in Nord America, cioè negli Stati Uniti e nel Canada, hanno proprio fatto sì che la loro musica diventasse popolare, sì, anche lì. Dopo che, insomma, che da loro aveva fatto, era la musica popolare, era la musica di tutti. Però questo è un argomento che forse a Coni non piace troppo, ma anche il jazz. Ah, ma no, non me la perdonerai mai, cavolo. No, mi ha fatto molto ridere. Anche il jazz ha avuto un ruolo fondamentale nel... Oh, ve lo promettiamo, la prossima stagione parliamo del jazz. Ne parleremo in qualche modo. Magari non cercheremo il modo meno noioso di tutti di parlare del jazz. Però ecco, c'era questa scuola a Kingston che si chiamava... Era l'Alpha Boys Catholic School, una scuola appunto cattolica, una scuola religiosa, che aveva una sezione di insegnamenti musicali all'avanguardia. Era davvero avanti. E ci ricolleghiamo poi sempre al fatto della colonialità di questi luoghi, certo, no? Certo, perché si parla di... In Giamaica tantissimo cattolico. I professori di questa scuola, i professori di musica, incominciarono ad inserire il jazz nei propri programmi. Per cui c'erano dei ragazzi che improvvisamente sono cresciuti avendo nel sangue, nelle orecchie, mento, calypso e questi generi qua, e però imparando il jazz a livello tecnico. Per cui sono lo ska è un genere molto composito, che ha preso un po' davvero da una parte e dall'altra. Una cosa divertente è questo, cioè di Ernest Ranglin, per gli appassionati di Skareg, di Sound System Culture, insomma farò dei nomi familiari, per gli altri forse un po' meno, ma insomma poi magari andate a diggare, scoprite un po' di cose. Si dice, pare che tra i primi a creare lo ska ci fu Ernest Ranglin, che suonava con Clue J, cioè Clue Johnson e i Bluesbusters storici dello ska. Leggenda vuole che una volta, provando con le chitarre, Ernest disse a Clue J: fai un ritmo diverso, fai suonare la chitarra in questo modo, ska, ska, ska, ska. Provate a farlo anche voi adesso che vi mandiamo il pezzo, ed effettivamente, raga, è così, è vero. È una, tra l'altro, questa della musica afrocaribe non, non è la prima parte leggendaria che troveremo. È una storia molto intrisa di realismo magico, se vuoi, di cose che non si sa bene come siano andate, di sì. Tante leggende c'è, diverse. Prima però... c'era il rallentamento causato, c'era un'altra di queste città. Sì, sì, poi ci arriviamo, poi ci arriviamo. Okay, cioè, okay. Ci sono forse 3-4 leggende diverse su una stessa cosa. Cioè, è pazzesco e bellissimo. Dunque, tra i grandissimi dello ska c'è Prince Buster, che cantava un pezzo con un messaggio tanto bello quanto pratico quanto, non lo so, giamaicano. Sentiamo qui, enjoy yourself, Prince Buster. It's good to be wise when you are young, 'cause you can only be young. But for once, enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Sì, un messaggio un po' forse dolce amaro, nel senso che da una parte ti dice enjoy yourself e da quell'altra dice enjoy yourself, divertiti perché è più tardi di quello che credi. Mentre torniamo in diretta. Consiglio. Su astarbere.com e su Radio Exalge, questo è Battito Madre, Black Music Talk, e stiamo parlando della musica cosiddetta afrocaraibica. E siamo già arrivati allo ska, siamo passati da Calypso, Mento, siamo arrivati allo ska, insomma, per proseguire questo nostro percorso dentro la black music. Eravamo stati in Nord America, su e giù per il Mississippi, work song, gospel, blues, soul, rhythm and blues, ci spostiamo e andiamo nei Caraibi. E questo era lo ska, questo genere musicale molto ska, molto veloce, ska, ska, ska, in cui si faceva anche con le mani, con la bocca, scusa, e si sente anche in questo pezzo di Prince Buster che si batte le mani. Prima l'ho biascicato, scusate, stiamo qua a Exage, ho bevuto un paio di birrette, abbiamo scelto Prince Buster, e invece era Prince Buster, Enjoy Yourself, e si sentiva anche un battito di mani. La cosa bella è lo ska da raccontare, potrebbe essere ad esempio questa, o meglio, che è stato forse la mossa, lo scacco decisivo, la mossa decisiva per la popolarità dello ska nel mondo, perché nel 1964 c'era l'esposizione universale, la World's Fair a New York, e alcuni artisti giamaicani furono invitati al padiglione della Giamaica per portare lo ska nel mondo. Tra questi c'era appunto Prince Buster, Jimmy Cliff, sì, madonna, cioè, mamma mia. Bravi. Byron Lee and the Dragonair, insomma, sono nomi leggendari. Questo succedeva tra l'altro 2 anni dopo che la Giamaica ottenesse l'indipendenza dal Regno Unito, cioè è proprio, era una cosa freschissima. Era il momento in cui la Giamaica stava formando la propria identità post-coloniale. Questa era la musica che suonava nelle radio, che suonava nei dischi nelle case giamaicane, e fu portata a New York per essere esportata in tutto il mondo. Abbiamo parlato, forse la prima volta che parliamo effettivamente di esposizione universale. Ma quello sicuramente. Però di identità musicale. Sì, in termini nazionali sì. Sì, in termini nazionali. In termini nazionali sì, ed è una cosa che succede quando si finisce a parlare di musica in levare, perché no, ma probabilmente proprio per questo, perché è una parte, sì, c'è poco da fare, è un genere molto preciso di un certo paese. Sì, e soprattutto che esatto, è stato molto bravo, però il paese, cioè proprio a livello, non so, a livello politico forse, ad esportarsi come il paese della musica in levare, perché poteva essere tante cose in più, immagino, certo, no? Sì, è verissimo. E più brutto. Forse. È verissimo. Un'altra cosa divertente, in questa stessa esposizione universale, insieme alla musica, ska fu anche presentata la danza. La danza ska. C'è una foto, insomma, qui vabbè, poi magari passeremo delle cose nel canale Telegram. Questo pezzo di Prince Buster era dell'album del 1968 che si chiamava Tutti Frutti. Elvis, rock and roll. Arriviamo? Ci arriviamo? O ve lo dobbiamo dire noi? Ho bisogno di dire tutto. Insomma, lo ska, riprendendo anche delle tipicità della calypso, aveva dei testi satirici, anche politicamente impegnati, che... Insomma, abbiamo detto, erano tempi di fermento in Giamaica, aveva appena ottenuto l'indipendenza, stava creando la propria identità postcoloniale, per cui lo si diceva in qualsiasi Figo. Tipo di espressione culturale. Certo, ma poi qualsiasi, immagino che a quel tempo qualsiasi cosa che viene prodotta all'interno del tuo paese, che sta cercando di avere un'identità, cazzo, cioè la spingi, promuove, spingi. Spingi. Allo stesso tempo questi subivano molto l'estetica statunitense. Certo. Perché, leggiamo, emulavano i gangster di Hollywood, quelli che vedevano nei film, e sì, cominciavano a vestirsi. I testi anche, specifichiamo, sì, sì. Cioè il ghetto boy, il rude boy, sì. Bravo, bravissimo. Per cui da questo modo di emulare, come attitudine, come vestiti e come cose che si dicono, come ci si porta anche, cioè, mi viene in mente un pezzo che è successivo, ma di Dennis Al Capone, che dice tipo "You think you're the best, but when I'm around you only are the second best". Questa sbruffonaggine. Al Capone, questa è una città. Dennis Al Capone. Ah, Dennis, c'è un Al artista Capone. Giamaicano, che è un DJ okay. Style che si chiama Dennis Al Capone, okay, insomma, okay. Questo tipo di sbruffonaggine veniva da Hollywood, dall'emulazione dei gangster di Hollywood, e nasce questo nuovo tipo di ska più lento, più con influenze statunitensi, che all'inizio si chiamava Rude Boy Sound, e non era ancora quello che diventerà. No, siamo in un momento in cui, esatto, a livello musicale cosa succede? Viene enfatizzato abbiamo detto prima, però viene enfatizzato il basso, viene enfatizzata la chitarra, entra in gioco l'organo. Dall'altra parte invece gli ottoni perdono un po' della loro presenza e importanza, e vengono sostituiti semplicemente vengono da un po' isolati, vengono un po' isolati, sì. E io a te volevo chiedere questo, scusami Cori, effettivamente un altro passaggio che si sente proprio nella musica è una presenza molto più forte della batteria, sì. questa è una cosa, è una domanda davvero genuina che non so la risposta. Spero che me la fai genuina, secondo perché... te, secondo te è più dovuto a un'evoluzione della musica o soprattutto a un'evoluzione delle tecniche di registrazione che permettevano di andare a prendersi tutti i suoni complessi della batteria in modo migliore e quindi poi la sentivi più presente? Perché sappiamo che le percussioni c'erano e c'erano sempre state. Certo. In questo pezzo di Prince Buster quasi non c'erano le percussioni. Subito certo. dopo invece, bam, con una chiarezza immediatamente diversa, c'è la batteria presentissima. Come... Guarda, secondo me sono cose che vanno di pari passo. Nel senso, siamo sempre... Ciao ragazzi, intanto ci ciao, sono ciao, degli ciao. Amici, salutiamo amici, salutiamo amiche, amici. Ciao Sanjo, ciao Marta, ciao Laura, grazie. C'è anche Pietro là dietro. Ah, ciao, ciao raga, scusate. E, niente, no, mi hai fatto una domanda effettivamente molto interessante. È interessante anche per me e mi andrò a cercare la risposta perché... Ecco, teniamo questo punto interrogativo. Teniamo questo allora. Punto interrogativo. Lo segniamo. Perché secondo me dal punto se... di vista tecnologico, o meglio di strumentazione, c'eravamo, cioè erano in grado di riprendere una batteria. Poi l'idea di portarla effettivamente in avanti può essere anche data dal fatto delle celebrazioni... piaceva sentire la strumentale, quindi la si porta. Non lo so, ci sono un po' di cose. Più ballerina. Sì. Non lo so, ce lo chiariremo, ce lo siamo segnati. Vediamo se in questa stagione o la prossima di Battito Madre riusciamo a chiarirci questo. E qui, Coli, ti voglio, perché qui arriva questa parte di leggende di cui abbiamo parlato prima. Una leggenda che io ho sentito quando mi stavo formando musicalmente qualche anno fa è la seguente: cioè che in un'estate particolarmente calda, in cui i giamaicani, insomma le persone svenivano seguendo i ritmi dello ska, i pubblici chiedevano a gran voce di rallentare la musica. Cioè, scusa, ti interrompo. Prego, prego. Ma in tutto ciò non abbiamo detto che sta musica ska, cioè secondo me manca sempre un passaggino perché non siamo abituati. Sentiamo. Però cavolo, questa musica qua era fatta per stare per strada, erano già nati sound system. Ah sì. Cavolo, capito? Sì. Quindi anche secondo me questa cosa qua si ricollega alla domanda che hai fatto. Nascono i sound system, c'è bisogno di alimentare e di dare musica alla folla e suono alla folla. E anche di sfruttarli al meglio. E di sfruttarli al meglio, quindi cosa fai? Cosa fai se non portare la parte ritmica e lo snare e la cassa e tutto esatto, quanto in faccia? Basso e percussione. Brass e percussione, l'abbiamo detto sempre prima. Sempre ritorni. Dai. Perfetto, forse ce la siamo chiarita, forse ce la chiariremo ulteriormente. Tant'è che appunto, questa è la prima leggenda. In un'estate molto calda in Giamaica si chiese ai sound system di pitchare verso il basso i dischi e alle band di suonare più lento. Perché faceva callo. Pensa te. Che in realtà è una galla, come dicono a Roma, è una bufala. E invece altre fonti affermano che pare sia stato lo stesso governo giamaicano che dice lo ska era una cosa così scatenata, tipo il jump blues della volta scorsa, che generava violenza, e quindi il governo giamaicano impose di rallentare il ritmo perché la gente stesse più tranquilla. Ma secondo me comunque una in tutta cazzata palese anche questa. Può essere una cazzata, però queste cose che sono quelle più che si ricollegano, cioè non è la prima volta che leggiamo cazzate del genere, no? Bello, e però bello, comunque sempre è tutto molto contornato, cioè, di quest'aura. Cioè, capito, sempre vengono riportate, quindi secondo me un fondo di vero per forza ci deve essere. Cioè una cosa che doveva succedere ed è successa, perché ognuno va a raccontarti la storia che sente più vicina e che percepisce come ci sarà stato quell'evento, quel party, quella volta in cui ma aspetta, effettivamente ma mica è ancora finita. Okay, ma mica è ancora finita, perché poi dice Alton Ellis, che è soprannominato the Godfather of Rocksteady, uno che ha in discografia un pezzo che si chiama Rocksteady e che è quello che ha dato poi il nome successivamente a questa musica, dice che sostanzialmente questa influenza statunitense ha fatto sì che i cantanti soprattutto, ma anche i musicisti, si appassionassero a questo modo di suonare gli strumenti, che un ritmo molto sostenuto come quello dello ska non gli consentiva di fare. Per cui hanno rallentato, cioè dice banalmente, andando più piano puoi suonare più note. Certo. E per cui che era proprio per una necessità musicale tecnica, o se no ancora... Pare che durante una session tenuta in uno studio con Elton Ellis e Jackie Me Too, storico, tastierista giamaicano proprio leggendario. Sto usando molto questa parola, ma è sempre vera, non è mai un'esagerazione. No, ma più che altro, molte leggende. Quando è così, effettivamente riportalo, perché anch'io non. Insomma, mancava il bassista, e quindi è stato costretto Jackie Mitu a suonare le parti di basso con la mano sinistra. Ma non essendo troppo un drago, ha detto: scusate, dobbiamo andare più piano. E allora si è rallentato il ritmo. Una storia molto simile che io ho casualmente trovato in un reel su Instagram negli ultimi giorni. È più o meno lo stesso, cioè il batterista Joe Isaacs ha sostenuto anche, cioè insomma, lo dice anche Sly Dunbar, che era Sly Robbie, insomma Sly era il batterista, Robbie il bassista, che hanno fatto la storia anche lì della musica reggae e successiva, lo conferma Sly Dunbar. E Joe Isaacs, quando arrivò a Studio One a far parte della sezione fissa, no, di Studio One, dice: facciamo le session, e io non ero in grado di suonare veloce, perché ho detto: scusate, dobbiamo rallentare. E da lì nacque il Rocksteady. Rocksteady, che è rock appunto Rocksteady. Rocksteady, bravo. Più sostenuto, cioè si capisce proprio che l'influenza fosse quella, perché era già successo il rock and roll negli Stati Uniti, cioè insomma, cominciamo, siamo entrati in momenti in cui tante cose succedono contemporaneamente. Ma insomma, abbiamo già capito, perché l'avevano già capito allora, che forse l'unica differenza tra lo ska e il rocksteady è proprio la velocità, e in realtà possiamo anche dire i temi, perché mentre lo ska custodiva ancora dei temi e dei testi con un messaggio, anche a volte di critica, rocksteady spesso si è adattato al mercato statunitense, quindi canzoni d'amore, come abbiamo detto prima. A proposito di canzoni d'amore, appunto, arriva Alton Ellis con questo pezzo che si chiama What Does It Take? Tra parentesi To Win Your Love. Here it is. To win your love for me. What does it take to win your love? Lo dice Alton Ellis, anche chiamato il padrino del Rocksteady, che abbiamo già detto. Insomma, Rocksteady, questa, boh, questa evoluzione, questa post-evoluzione, testi romantici di cui abbiamo già parlato, okay, a lungo, e basta. E questo antecedente del reggae, perché appunto dal Rocksteady nasce il reggae. E adesso, insomma, però scusa, prima ancora, perché noi, visto che ci piace tanto questa musica, ci piace tanto parlarne, alla fine forse non ci rendiamo conto che potremmo risultare un po' pesanti. E per cui, visto che a noi piace dire che quando si parla di musica si parla sempre anche di persone, e non solo di spostamenti di persone, ma anche di persone che stanno, cioè dell'ambiente fisico e culturale in cui stanno le persone, che le persone vivono quotidianamente. Allora, per farlo in un modo, senza citare studi sociologici di chissà che cosa, per farlo in modo leggerino, mi piaceva leggere qualche detto popolare giamaicano. I proverbi, che poi scopriremo essere non per niente diversi dai proverbi che conosciamo noi. Giusto, è vero. E perché ce ne sono alcuni, tra l'altro, o meglio, cioè il reggae, la musica popolare giamaicana. O meglio, diciamo che i detti, come che li chiamate, scusa? Proverbi popolari. Giusto, proverbi, era facile. O meglio, ma effettivamente i proverbi che usano e usavano loro si possono essere tranquillamente riportati proprio... a quello che a ciò che diciamo noi. Cioè, ce ne sono alcuni che sono proprio hanno l'equivalente in certi detti nostri. Perché facciamo questa cosa? Non lo sappiamo. Perché? Però ci aiuta anche. Ci aiuta anche a capire, no? Sì, fa proprio parte forse dell'identità di questo programma, sì. Di prendere cose che sembrano distanti nel tempo e nello spazio e mostrare come in realtà siano vicine, come tra uomini e tra donne ci si capisce tutti se si vuole. Cazzo, l'ho detta grossa, ma giusto, insomma, giusto. Se in una cultura popolare così distante se ne vengono dette delle cose molto simili alla cultura popolare nostra, che è distante culturalmente, insomma, è distantissima, il motivo ci sarà. E allora, ad esempio, questo, il primo, l'ho scelto perché è contenuto in un pezzo famosissimo che si chiama Bread Gravalicious dei Wailing Souls, che è High Sit Kill Miss Thomas Puss, cioè sedersi molto alto ha ucciso il gatto della signora Thomas, che vuol dire stai appunto alla superbia. Magari il gatto si è arrampicato talmente alto che poi cadendo si è ammazzato. Oppure Time is longer than rope, che è un messaggio di, insomma, un po' di dire sì, paziente. Ma lo si dice sempre in modo molto fisico. Il tempo è più lungo della corda, che invece ha un capo e una coda. Certo. Io penso avevo pensato addirittura che come corda fosse cappio. Non so per quale. Sai che anche a me era andato, anche a me era andato okay. Lì il pensiero. Forse avremmo bisogno di una seduta. Esatto, forse. Perché corda. Magari non volevano dire. Non è troppo sano. Però vabbè, continuiamo con i problemi giamaicani che non sono istigazione al suicidio, ricordiamo. Secondo me è facile, a quei tempi maneggiavano corde, le corde le maneggiavano tutti i giorni. Oggi probabilmente se pensa alla corda volta o pensa alle barche va bene. Questo che ha un equivalente in un detto siciliano che conosco, che poi in realtà magari te lo spiegherò un po' meglio, ma a me mi ha subito fatto pensare a quello. Qua vado con il mio patua giamaicano scavatissimo. Vai. Wagwan bada morning, can come good evening. Ah yeah. Yeah, man. Cioè, ciò che inizia male il mattino non può finire bene la sera. Che mi sembra un po' il siciliano con un ascituno non può morire di quadrato. Che un mio amico invece storpiava con un ascituno non può morire di pesce spada. Però ecco questo. Che in realtà i giamaicani te lo spiegano anche come per dire non ha senso scervellarsi su cose che non puoi risolvere. Se una cosa è iniziata male spesso finisce male, per cui non te ne preoccupare. Questo che poi anche devo mi dire piace. Cioè rispecchia abbastanza anche magari l'immaginario, perché poi non è così ovviamente, però di quello che effettivamente vivevano su quella maledetta isola maledetta e bellissima tutti i giorni, cioè non ambire a chissà cosa, non la corda è lunga ed è pronta il tempo di più quindi tranquillo al prossimo angolo mi trovi. Sì, ma tranquillo, c'è tempo. Vabbè, dicere un altro, Pietro. No, aspetta, ma prima, perché mi piace dire questa cosa? Perché io ho sempre pensato, e l'ho detto nei momenti in cui mi è successo di dirlo, che il reggae avesse questo tipo di saggezza intrinseca, proprio una saggezza diversa da quella che conosciamo noi, che è molto pratica e che è direttamente proprio della vita di tutti i giorni, come questo qui, questo prossimo Codman Keep Sound Born. Cioè, il dicelo codardo in inglese, dicelo il a coward man keeps his bone sounds sound, cioè il codardo mantiene le ossa intatte, tu, perché cioè se fuggi da una zuffa comunque starai meglio di quello che c'è corso dentro. Cioè quanto è pratica sta roba. È una cosa che mi diceva mio padre. Guarda, puoi anche darne 10, ma quando ne hai presa una l'hai presa. Quello dicono anche i giamaicani. You shake my hand but you no shake him heart. E lo dicevo anche ora Sandy in una canzone. You see a man's face but you don't see his heart. Stringi, vedi la mano di un uomo ma non il suo cuore. Questo ci ha fatto ridere. Big blanket make man sleep late. Questo va più grande, mi fa ridere. Una coperta molto spessa. Una coperta molto spessa ti fa dormire troppo. Quindi occhio alla comunità, alla troppa comunità, al lusso a concederti troppo, perché rischia di cambiarti. E sleep late non va bene, non va bene. Ne siamo tutti, anzi io ne sono particolarmente. Non possiamo che chiudere con questo, che è il mio preferito, l'ho messo in grassetto, è Good Friend Better Than Pocket Money. Preferisco avere un buon amico che soldi in tasca. E qua siamo qui con Coli a fare le dirette, a battito male, a parlare di black music, che è molto meglio di soldi in tasca, l'amicizia, il black music, la radio, battito male, a star bene, exalge. Andiamo a sentire quello che è forse il mio pezzo preferito di sempre, e non ho paura a dirlo, perché ogni volta che lo sento suonare, soprattutto da un sound system, mi tocca delle corde che poche cose mi toccano. Questo uomo si chiama Tony Barrett e non sono riuscito a capire da dove venga. A volte viene scritto con la EY, a volte solo con la Y. Ha lo stesso cognome di Aston Barrett, bassista storico di Bob Marley, ma non sono riuscito a capire da chi sia questo Tony Barrett. Fatto sta che ha scritto questo capolavoro che si chiama Shrine Man. I suffer so much on this land. Jaja knows that I am a talented man. Why should I suffer so much on this land? Jaja knows that I am a trying man. Don't find my way to get along. Will someone help me with my song? There's a rise and fall for everyone. Because when I fall, I know I'll rise again. I keep on searching for the things that I want. Cause when I'm gone, I know I am gone. Yeah, I know I'm gone. Ooh, yeah. Well, man. I keep on searching for the things that I want. Because when I'm gone, I know that I'm gone. Why should I suffer so much on this land? Jaja knows that I am a talented man. Why should I suffer so much on this land? Jaja knows that I am a trying man. Why should I suffer so much on this land? Sì. Tony Barrett, con o senza questo pezzo, resta... insomma, come fare... Come dirlo quello che mi fa questo pezzo se non col silenzio e semplicemente con la musica? Perché poi, insomma, questo è un reggae complesso, perché sembra early, ma in realtà è un pezzo del 78, c'è un organo che fa un levare doppio quasi come ska e una chitarra invece che batte sul battere. Mm-hmm. È molto complesso. Sente che c'è un po' un'armonia un po' più sinuoso, no, di un reggae roots o... Assolutamente sì, con un tema che è assolutamente blues, perché è di sofferenza. Perché devo soffrire così tanto in questa terra, che già sa che sono uno che già sa che ci sto provando eppure soffro. Accordi minori, insomma, è tutto quello che abbiamo detto. Progressione di accordi blues e R&B, temi che sono diventati, anche quelli hanno risentito di quell'influenza là, però con quella cosa che si fa fatica a definire, se non semplicemente con l'elemento musicale che è il levare, ma c'è molto altro. Cioè, comunque già soltanto quello fa. Però ecco, cioè, quantomeno stiamo affrontando una cosa completamente diversa. Bello. Da tutto il resto. E quindi, cioè, reggae, le prime cose sono apparse a fine anni 50, inizio 60. La parola pare sia comparsa ufficialmente nel brano Do the Reggae di Toots and the Maytals. Toots Hibbert, morto pochi anni fa, pace all'anima sua, che era quasi in pace. Era un ballo, no? Sì, leggiamo, esatto. In realtà reggae era stato inventato attorno al 1960 per identificare un rozzo, in inglese rugged, stile di ballo e di musica. Ma scusa, rugged ti ricorda qualcosa? Ragtime, fratello. Cioè, vedi che alla fine siamo lì, succedono le stesse identiche cose, che si parlano e magari, insomma, si parlano, magari non... Più che altro, secondo me siamo stati bravi perché abbiamo compresso in questi 20 anni. Che bello dirselo da soli, però, e quanto è facile, però sì, siamo contenti, sicuramente siamo contenti. Siamo contenti, esatto. Perché in 20 anni devo dire che ci sono successe un puttanaio di cose che abbiamo imparato, no? Sì, che abbiamo imparato, bravo, la cosa bella, magari lo diremo anche, cioè, sicuramente lo diremo a fine stagione, che stiamo imparando noi per primi tante cose, perché Battito Madre è uno spazio di curiosità in cui noi veniamo a parlare di una cosa di cui ci piace parlare, che ci riempie le vite. Speriamo che sia altrettanto piacevole ascoltarci. E, insomma, sì, la soddisfazione che viene dallo scoprire di aver intuito bene, di avere una conoscenza base che ci consente di capire le cose che... Ma poi, sai, è un po' come un puzzle che hai... Cioè, io mi gli darei questa immagine a tutto quello, perché, come hai detto tu, ci piace la musica, cioè l'ascoltiamo, però era come avere un po' una scatola con i pezzi del puzzle tutti mischiati. E mo adesso abbiamo fatto eravamo un po' daltonici, un po' daltonici con le tessenine ribaltate, abbiamo veramente letto due cose e abbiamo imparato tanto. Si mette tutto in ordine, e poi, esatto, è il bello che si mette tutto in ordine. Poi magari nel momento in cui le diciamo l'ordine si sente un po' di meno, ma questo, insomma, ce lo direte voi in altre situazioni. Nel frattempo noi siamo, insomma, lo ripetiamo, in diretta su astralbene.com, su Radio Exalge, dal vivo da Exalge. Se voi volete parlarci mentre, minchia, sono le 22:12, siamo schizzare. Dobbiamo schizzare. Se volete parlarci c'è il canale di Telegram di Astralbene, vi leggiamo e vi rispondiamo. Dunque, reggae. È tornato il momento di parlare di etichette, perché non si può parlare di reggae senza parlare di un uomo che si chiama Chris Blackwell, nato a Londra nel 1937. Che però crebbe l'infanzia in Giamaica per poi tornare in Inghilterra per studiare, ma importante, insomma, interrompe gli studi. No, io metterei proprio accento su questa cosa qua. Cioè, è giusto, no? Sì. Infanzia in Giamaica. Per la prima volta anche con la nascita di un genere corrisponde anche uno spostamento oltreoceano. Certo. Certo. Non da trascurare. Grazie che mi hai fermato. Figurati. No, perché certo, anche se al momento non si occupava ancora di musica, ma sicuramente è stato un passaggio fondamentale. Ma poi torna in Giamaica, dove capisce che vuole fare l'imprenditore, soprattutto l'imprenditore discografico, e nel 59 fonda un'etichetta discografica che si chiama Island Records, che ancora esiste e fa tutt'altro, insomma. Però, insomma, storica e fondamentale. Era lui stesso a produrre i dischi ska di cui abbiamo parlato prima, magari non tutti ovviamente, ma la Island è stata la fucina culturale, musicale della Giamaica. Per cui leggiamo che nel 62 ha, insomma, uno del 37 nel 62 c'ha 25 anni. Aveva già fondato un'etichetta discografica e torna in Inghilterra a vendere dischi agli inglesi di origine afro-giamaicana. A questa cosa ci collegheremo in un'altra puntata. Forse quando parleremo di reggae, ecco, più direttamente, ma sicuramente anche quando parleremo di sound system, cominceremo a parlare di clubbing, perché è un... qui era già successo, insomma, gli afrocaribici erano già a Londra, erano già in Inghilterra. Cioè, sono passati comunque 25 anni, come sì, hai detto tu, quindi ci sta. Questa cosa è bella, cioè nel momento in cui Blackwell si mise a vendere musica in Inghilterra, in uno dei suoi viaggi dalla Giamaica all'Inghilterra si portò questa ragazza che aveva 15 anni e si chiamava Millie Small, Small di nome, di fatto, e anche di voce, che a 15 anni nel 64 registrò questo pezzo, non lo ascolteremo, ma il pezzo che si chiama My Boy Lollipop, lo conoscete di sicuro, se volete lo canticchio. Sì, canticchio. My Boy Lollipop, insomma, dai, lo si sa. You make my heart go giddy up. Ecco, quello lì. Nel 64 questo pezzo qui di Millie Small, che aveva 15 anni, vendete 6 milioni di copie. Blackwell è la persona che ha fatto conoscere il reggae a tutto il mondo. Dalla Island Records poi passarono Bob Marley e gli Wailers. Creò anche l'etichetta Mango Records. Poi in realtà nel 78, mi sembra, forse più tardi, tutte le sue etichette vennero vendute alla Polygram, che fa parte della insomma, è una division di Universal, per cui è diventato major. Ma prima aveva fatto un lavoro incredibile con tutta la musica giamaicana. Leggiamo, scusa, nomi, ma Burning Spear, che abbiamo già ascoltato e tuttora è uno dei cantanti più in vista e più importanti del reggae. Black Uhuru, la prima e forse unica super band reggae, perché aveva Sly e Robbie, basso e batteria, e Michael Rose alla voce, tre nomi incredibili. I Third World, gli Aswad, cioè dei nomi davvero pazzeschi. Grazie Piero per questo piccolo, cioè nel senso non piccolo, però almeno contestualizzi quello che abbiamo appena detto e ci fai capire che ne ha fatta di cose e di strada e di lavoro per tutti quanti, per il genere. Sto insomma, ragazzo, casualmente, se vogliamo notare anni. Una cosa, sì, un ragazzo di 25 anni, qui dobbiamo tanto, però se vogliamo notare una cosa, il business con la musica dei neri la fanno i bianchi. È vero. Questa è una cosa che non cambia. È vero. Insomma, e lo lasciamo qui, non andiamo oltre a commentare, poi si rischia di dire delle grandi cazzate. Ora, giusto, a proposito di musica giamaicana e di leggende, c'è questo bel progetto di cui ti voglio parlare, e che però prima ti faccio ascoltare, perché questo è un pezzo, è un rifacimento di un pezzo degli anni 60 di Ken Booth, però in A The Yard, nel 2017, nel disco che si chiama Soul of Jamaica. Ne parliamo dopo. Artabella, come on home. Artabella, Artabella, my pretty little darling, please come home to me. Artabella, I saw you with a fella and I don't like the idea. Artabella, you told me that you love me, there's no one else above me. Artabella, you took all my money, then told me you don't want me. Artabella, you know that I love you, but you still go away. Come back to me, babe, each and every day. Artabella, come on home. Artabella, my pretty little darling, please come home to me. Artabella, you took all my money, then told me you don't want me. Artabella, you told me that you love me. There's no one else above me. Hard to belly you to call my money, then told me you don't want me. Hard to belly, you know that I love you, but you still go away. Come back to me, babe, each and every day. La la la da. The Yard insieme a Ken Booth, il pezzo si chiama Artibella ed è un, insomma, il remake di un pezzo di Ken Booth degli anni 60. E perché io ho voluto suonare questo e non qualcosa di molto più direttamente reggae? Perché qui magari non stanno, cioè non stanno facendo quello, ma sono le stesse persone che facevano il reggae leggendario degli anni 60 e 70. Certo, perché posso dire, me lo sono chiesto quando mi hai detto ti faccio sentire un pezzo, così vorrei metterlo, il settimo pezzo, mi fai sentire questa cosa e dico, ma per quale cazzo di motivo stiamo sentendo questa roba? Però la risposta ce l'hai. Cioè, perché allora si chiamano In The Yard, è un collettivo di vecchi musicisti giamaicani, tra cui ex membri dei Viceroys, hanno collaborato con Ken Booth, Cedric Myton, dei Congos, cioè delle persone che sono veramente degli artisti che hanno fatto la storia di questa musica. Negli anni 2000, anzi 2010, sono stati messi insieme da questa etichetta che si chiama Maca Sound e Chapter 2 Records per fare questo progetto che si chiama In The Yard, in cui nel cortile recupera, esatto, nel perché cortile, poi no? La yard giamaicana fa molto parte dell'identità culturale di questo paese. La yard è dove succedono le cose, dove si fa musica. La cosa bella di questo progetto è che hanno ripreso il reggae come si faceva alle origini, come si faceva nelle hills giamaicane, nelle colline, registrando open air a Kingston con degli artisti classici della reggae music. È una cosa che è un'emozione, a me dà un'emozione fortissima, e insomma credo che si sia anche sentito. Adesso li vediamo qua in foto, sì, sono, esatto, dei vecchietti foto, con sono i rasta, sì. Esatto. È fighissimo. Sono i vecchietti con i rasta che fanno delle figate incredibili. Allora, visto che abbiamo davvero davvero davvero poco tempo, andiamo direttamente anche al prossimo pezzo, che è Kelly Shane, che è un esordiente, ha solo questo fuori, di un mese fa. Fit Busy Signal, che è una leggenda, cioè insomma nome, questo giro non leggenda, nome importante della dancehall, e questo ci consente di parlare anche di quelle che saranno le evoluzioni future della musica in Giamaica, perché poi arriva la dancehall, ne parleremo, battito male, molto probabilmente l'anno prossimo. La cosa curiosa di questo pezzo è che l'ha fatta Elton Ellis, l'ha fatta Dennis Brown, l'originale del 67, ed è di uno statunitense che si chiamava Johnny Taylor, ma una quantità di versioni di cui non si può tenere traccia, e noi andiamo ad ascoltarlo. Kelly Shane feat. Busy Signal, Ain't That Loving You. My baby telling me she love me. Talk about love. I think they have the power from above. You think I love you for just one thing? Do you, my love? It may be the way it seems. But I love the way you carry yourself. Said I love the way you wear your hair in the love in you. Hey, the love in you. For more reasons than one. More reasons than one. Somehow my so when you say you love me, me have to think I'm smart. The word love is overrated. It's not reciprocated. People saying it, not meaning it whenever them talk. Girl, since you really saying that you love me, give me the energy, your actions will show me. Call me not really pressure for you, no. Be assurance, the rude boy need, and that's enough, girl. So real and a flaw. Hey, girl, you could call on me. Whenever you need me, I will be there. I will love you up, my baby. Keep you one beside me. Off my heart, so don't leave me standing. Somehow, my love, you've been misled by the awful, awful things that awful. Other men say. So other man, I tell but you. I love the way you carry yourself. Sì, questa era Kelly Shane insieme a Busy Signal, che rifanno un pezzo che ha, insomma, ripeto, una serie di versioni incalcolabili, di cui tra l'altro moltissime di giamaicani, di gente che ha fatto reggae, The Roy Wilson, Ernest Ranglin, c'è addirittura U-Roy. E ci serve anche per dire che poi il reggae avrà un'evoluzione successiva, che è quella della dancehall, di cui Busy Signal è un rappresentante. Ci serve anche per dire che nel 2023 in Giamaica continuano a venire prodotte queste cose, come in realtà in tutto il mondo, ma questa è musica popolare giamaicana. Detto questo, mio caro Colli, ci serve anche per dire che faremo una cazzo di stagione 2, che faremo una cazzo di stagione 2 in cui avremo abbiamo deciso prima avremo modo di parlare di tutte le cose di cui non abbiamo parlato quest'anno, tra cui anche la dancehall. Detto questo, caro Colli, grazie un'altra volta per essere stato con me, con noi in questo episodio di Battito Madre. Grazie ad Exalge, grazie da Starbay, grazie alla radio, grazie a Black Music, a tutti e a tutte quelle che ci hanno ascoltati e sono venuti a trovarci. Noi andiamo in sigla, ci sentiamo e ci vediamo mercoledì 19 aprile con una puntata hip hop. Yes, hip hop, l'abbiamo deciso prima anche questo. Ciao ragazzi. Let's start.